Oltre Tevere, Vaticano e dintorni. Di Katia Caramelli e Don Willy Volonté. Una buona giornata da Katia Caramelli. Domani il compleanno, 85 anni, il 19 e 7 anni di pontificato. È una settimana importante quella che aspetta Benedetto XVI. Ospite del primo di quattro appuntamenti organizzati a Milano dal Sole 24 Ore in preparazione a Family 2012, abbiamo intervistato l'arcivescovo emerito di Milano, il cardinale Dionigi Tettamanzi, a partire dalle voci che un giorno il Papa, se dovesse essere in difficoltà, potrebbe dimettersi. Questo è un calcolo che è legato soltanto al disegno misterioso e amoroso del Signore. Io penso che di fronte al Santo Padre, che esprime la sua disponibilità anche a lasciare tutto per servire la sua Chiesa anche in un'altra forma, questo è un aspetto toccante di umanità, ma sono convinto che il Signore non solo ha dato, ma continua a dare, e noi ne vediamo i frutti al Santo Padre, una capacità di servire la Chiesa e l'umanità con il richiamo costante alla fede, con caratteri che davvero mettono in luce la giovinezza spirituale di Benedetto XVI, la sua lucidità, il suo calore e vorrei aggiungere anche la sua mite e fierezza. 7 anni di pontificato tra poco, che bilancio si può fare? Quali sono stati, secondo lei, gli aspetti pregnanti di questi anni? Il suo richiamo ai credenti perché la loro fede sia una fede viva e concreta. E tale è la fede quanto è un incontro personale, personalissimo con il Signore Gesù, che non è un'idea, non è un precetto, ma una persona viva che noi possiamo incontrare, o meglio, dalla quale siamo quotidianamente incontrati. Il richiamo alla fede come realtà tipicamente personale. Ha dovuto purtroppo affrontare molti nodi complessi, il primo tra tutti la pedofilia, ma non solo. Sì, i nodi complessi sono su diversi fronti, ma come continuamente richiama il Santo Padre, questi nodi affondano in un terreno davvero più profondo, più capillare, ed è il problema appunto della fede. O si ha la fede, allora si ha il coraggio di denunciare in una maniera forte, rigorosa ogni male, e nello stesso tempo, se si ha la fede, si ha anche una speranza che ogni male non riesce a superare la forza, la bellezza, il fascino che deriva dal bene. Si dice spesso che la Chiesa deve trovare dei nuovi modi, delle nuove strade per dialogare con i giovani, perché si nota spesso uno scollamento tra la loro condotta e i valori proposti dalla Chiesa. Secondo lei qual è la strada appunto per questo dialogo? Apparentemente semplice, ma in realtà molto impegnativa, è quella di stare in mezzo ai giovani e di parlare con loro e di presentare come le loro difficoltà sono le stesse difficoltà che sono chiamate ad affrontare e a sciogliere gli stessi adulti. C'è bisogno di qualche esempio in più anche da parte della Chiesa, cioè di testimoni credibili? Non c'è dubbio che la comunità cristiana ha dal Signore una grazia particolare, quindi una responsabilità più forte per offrire ai giovani che sono straordinariamente ricchi di talenti, ma ancora alla ricerca delle strade concrete per una loro realizzazione, offrire davvero dei segni di credibilità e di affidabilità più limpidi, più trasparenti, più concreti. Ora c'è Don Willy Volonté. Il Papa ha visitato Cuba la settimana prima di Pasqua. Occorre sempre far decantare un evento di questa portata per cogliere l'emergere della novità. A Cuba la libertà è drammatica e questo ha reso non facile il viaggio del Papa. Nonostante qualche timida apertura, il regime dei Castro ricalca ancora schemi logori legati all'ideologia marxista rivoluzionaria. Ancora una volta il tempo è lì a smentire. Il Papa l'ha affermato che quell'ideologia non ha portato da nessuna parte. Il grande tema della libertà è stato ribadito dal Papa e cito: «Il rispetto e la cura della libertà che palpita nel cuore dell'uomo è il compito che ogni uomo deve affrontare perché non si senta impedito e limitato nelle sue libertà fondamentali. In questo la Chiesa deve essere sentita come una naturale collaboratrice nell'allargare gli orizzonti oltre gli steccati». E poi il Papa si è lanciato in un'affermazione che ha del sorprendente, dicendo: «È commovente vedere come Dio non solo rispetta la libertà dell'uomo, ma sembra averne bisogno». Il Dio dei cristiani vuole quindi dei figli liberi, non dei servi irresponsabili, anche se sono convinti che solo l'obbedienza nella fede è la vera libertà, l'autentica redenzione, assaggio che anticipa una profonda felicità. Ecco perché la libertà religiosa è la madre di tutte le libertà e una vera laicità dello Stato, come anche ha affermato il Presidente della Repubblica Italiana, deve abbracciare il riconoscimento della dimensione sociale pubblica del fatto religioso. I vescovi cubani, come atto esplicito di questo riconoscimento della libertà per tutti, ha chiesto, in parte ottenuto, il rilascio dei prigionieri per reati di opinione e per dissentire con il governo. È un bel esempio di convivenza civile.